cerchiamo di essere puntuali perché c'è un pomeriggio culturale, quindi c'è adesso questa presentazione del libro e poi ci sarà un'altra presentazione più tardi di un altro libro. Non conoscendo sulla fiducia, dico che comunque non perdetevi mai l'occasione quando presento un libro, perché insomma in questi tempi grami, insomma, stare vicino ai libri fa sempre bene. Questa mattina è stato aperto il ciclo, diciamo, di questo volume, che si chiama Stato di Abbandono, è all'Istituto Zoli, che è la scuola capofila, l'Istituto di Istruzione Superiore Adone Zoli di Atri, del progetto di legalità Ti spiego la mafia, parola di tutor. Questa mattina i nostri ospiti hanno già parlato con i ragazzi e credo che sia, lo dico anche come attivista del Premio Borsellino, una parte importantissima. La mattina andare nelle scuole è qualcosa di faticoso per loro, ma di importante, perché se riesci a prendere anche 5 ragazzi su 200 hai seminato bene. Prima di passare al titolo del libro e alla presentazione dei nostri ospiti, il saluto del padrone di casa, che è il sindaco Robert Verrocchio. Grazie Luca, grazie a voi. Ovviamente il primo saluto è rivolto a Giuseppe Costanza. È davvero un onore per la nostra città, insomma, averlo qui, la sua storia con il suo coraggio, di cui parlerà tra poco. Saluto e ringrazio Riccardo Tessarini, che poi è l'autore, lo scrittore del libro, che poi racconta in qualche modo, no? Questo, posso usare la parola sfogo, Giuseppe? Anche sfogo. E Luca Magitti, che ha appena introdotto la giornata, che oramai è di casa soprattutto su questi temi. Noi, quando penso a Luca Magitti, Luca, non penso solo al giornalista, Luca giornalista, ma a Luca che in qualche modo è incarnato, è stato protagonista di un premio importantissimo, il premio Borsellino, che ha visto la nostra città protagonista per tantissime edizioni. E ne parlavamo poco fa, con l'auspicio, insomma, di poter tornare ad essere protagonisti di questo premio, che poi ha consentito alla nostra città di ospitare personalità importanti nell'ambito della legalità, nell'ambito di temi e valori straordinari come democrazia, libertà, e temi che questa mattina sono stati trattati e affrontati nell'ambito di un incontro con le scuole. Ringrazio la preside Magno, la professoressa Mocciola, perché grazie a loro, poi parlando anche con Francesco, non so dove è andato, che noi abbiamo approfittato di questa straordinaria occasione, perché poi l'Istituto Zoli di Atri in realtà è capofila di un progetto importante che sta girando l'Italia, che vede Giuseppe Costanza un po' protagonista nel raccontare la sua storia. Giuseppe Costanza che in qualche modo lamenta anche, come dire, una poca attenzione su quanto è accaduto nell'ambito della strage di Capaci. Tra qualche giorno credo che sono 25 anni dal 1992, da quando ci fu la strage, insomma la morte di Giovanni Falcone, e come sapete Giuseppe Costanza, che solitamente era la guida, perché era l'autista giudiziario personale di Giovanni Falcone, casualmente quel giorno non guidava l'auto su scelta di Giovanni Falcone, e oggi, diciamo, fortunatamente e miracolosamente ha la possibilità di raccontare quanto è accaduto, ma non solo raccontare quanto è accaduto, ma in qualche modo testimoniare l'importanza di avere, come dire, la possibilità di una voce, di un testimone nell'ambito di questi temi. Dicevo sfogo prima perché in realtà Giuseppe mette in risalto il fatto che non vengono, come dire, utilizzate e rese, diciamo, patrimonio queste testimonianze, nel caso specifico il suo. E pensavo qualche giorno fa, quando abbiamo iniziato ad organizzare questa cosa, perché sono andato anche a rivedere bene, a documentarmi un po', addirittura ho visto che nell'ambito dell'Expo del 2010, se non ricordo male, l'auto di Giovanni Falcone, che poi è stato in qualche modo conservato nell'ambito del Dipartimento Penitenziario, addirittura era esposto in questa fiera. E quindi pensavo, cioè, giustamente si fa tanto per esporre un'auto, anche per raccontare un qualcosa, quindi mandare un messaggio, e poi non si coglie l'occasione per raccogliere le testimonianze dirette di chi ha vissuto accanto ad un uomo coraggioso. Parliamo di Giovanni Falcone, ma sono tanti che quotidianamente, insomma, con tanto coraggio, stanno in prima linea per la legalità e che a volte non riescono a raccontarla, ecco, questa esperienza. Quindi grazie per essere tra noi e saremo sicuramente molto attenti in questa oretta di chiacchierata che farete insieme a noi. Grazie. Grazie. Io soprattutto ai più giovani voglio raccomandare di fissarsi in mente questo 21 aprile, perché raramente quando frequentiamo un incontro pubblico, adesso poi siamo in tema di social media, fake news e altro, ci capita di stare a contatto con la storia vera, quella con la S maiuscola. E qui voi oggi, come ha detto il sindaco, avete l'opportunità, credo il privilegio, di avere di fronte a voi un personaggio che plasticamente rappresenta un pezzo di storia, purtroppo un pezzo di storia amara, perché è la linea di demarcazione, quando alza il tiro la mafia con questi, c'erano già stati attentati, ricordo solo Rocco Chinnici, ma insomma questo è l'attentato che va su tutti, diventa una sorta di 11 settembre, prima dell'11 settembre, va su tutti i media, diventa, ha una potenza anche evocativa, deflagrante. E qui appunto Giuseppe Costanza è con noi oggi e lui davvero rappresenta un pezzo di storia. Perché a proposito di S maiuscole, perché questa è la storia con la S maiuscola, lui è un servitore dello Stato, servitore e Stato entrambi con la S maiuscola, perché sappiamo purtroppo negli ultimi decenni che servitori con la S minuscola di uno Stato con la S minuscola hanno trovato scorciatoie, strategie, tensioni e altro ancora. Ma mi viene in mente, pensando a Giuseppe, che avuto l'onore, a cui ho avuto l'onore di stringere la mano pochi minuti fa, un verso credo di Ungaretti, diceva: la morte la scontiamo vivendo, perché adesso capirete perché dalla sua mancata morte gli è derivato un quarto di secolo di secondo me atroci dolori umani ulteriori a una persona che ha già sofferto molto e che grazie al coraggio di un ragazzo classe 75, Riccardo Testarini, che è qui con noi, è diventato un libro. Quindi io vi chiedo un altro applauso alla medaglia d'oro al valor civile, perché lui è medaglia d'oro al valor civile. E consentimi, a questo giovane ragazzo coraggioso di Forlì, che con l'editore Minerva hanno raccolto i loro pensieri in un libro. Quindi un altro applauso per Riccardo, perché è molto importante. Grazie. Riccardo, comincerei da te proprio su questo. Sei giovane, avevi, se non erro, 17 anni, no? Nel 92. Come è nata l'idea, come ti sei conosciuto con Giuseppe e come è nata l'idea di fare un libro che, ripeto, è una presa di posizione netta, dura e anche contrastata? Vedremo poi perché. Io ho conosciuto Giuseppe Costanza 5 anni fa, per caso, per radio. L'ho sentito, era il 22 maggio del 2012, ed era intervistato in diretta da Alessandro Milan di Radio 24. Come ogni mattina entro in auto e accendo la radio e sento Alessandro Milan che parla, che introduce, quindi alla vigilia del 20° anniversario della strage, una persona che non conoscevo, Giuseppe Costanza, e lo intervista in diretta e lui comincia a raccontare la propria esperienza in prima linea, quindi per 8 anni a fianco del giudice Giovanni Falcone. Però la cosa che mi colpì di più in quella lunga intervista, tra l'altro è scaricabile in podcast, quindi si intitola Io ho visto, nel 2012. Di quella intervista mi colpì di più quello che raccontò dopo della sua vita, dopo quel 23 maggio del 1992. Non mi spiegavo, cioè, come Giuseppe fosse stato abbandonato, perché questa è la parola giusta, dallo Stato e dalle istituzioni che aveva servito. È una storia drammatica, una storia lunga, una storia personale. Quindi la prima cosa che mi saltò alla testa fu: ma com'è possibile che non conosco Giuseppe Costanza? Io non sapevo, non so, qui in sala chi conosceva, chi conosce, insomma, quali sono stati i sopravvissuti della strage di Capaci o di quella 2 mesi dopo di Via D'Amelio o altre ancora. Grazie. Si parla giustamente, e si onorano i caduti, però non si parla inspiegabilmente dei sopravvissuti. E questo l'ho capito così in questi ultimi anni, perché anch'io non me l'ero mai posto questo problema, non sapevo che ci fossero dei sopravvissuti in quel 23 maggio. E quindi cosa ho fatto? Da persona curiosa quale sono, ho cominciato a informarmi così autonomamente sul web, e mano a mano che mi informavo trovavo del materiale sul web, qualche intervista, qualche breve video, eccetera. Però nulla di più. Al che mi sono detto, ma com'è possibile che nessun giornalista, com'è possibile che nessuno abbia raccontato integralmente la sua incredibile storia? Quindi cosa feci? Era la prima volta che affrontavo una cosa del genere. Mi balenò ovviamente l'idea di scrivere un libro su di lui, però lo vedevo come una montagna da scalare da solo. Allora cosa feci? Contattai una persona che conosco e che al tempo era assessore alla legalità del Comune di Bologna, la dottoressa Nadia Monti. La chiamai e le proposi l'idea. Quindi io, da cittadino che si dà da fare, insomma, questo, io sono tanti anni che vado nelle scuole, mi occupo di educazione alla cittadinanza, sempre a Forlì con un'associazione di volontariato. Ricordiamo il comune che hai fondato, il cittadino. Il cittadino, tra l'altro, sì. Educazione alla legalità. Esatto. E, le proposi l'idea, le dissi: Nadia, io vorrei conoscere quest'uomo e eventualmente proporgli un progetto, scrivere la sua biografia. Innanzitutto proviamo a conoscerlo, mi puoi aiutare? Però quello che tengo a sottolineare ogni volta è che non fu la Nadia Monti amica, ma l'assessore alla legalità del Comune di Bologna. Ci furono le istituzioni che si mobilitarono quella volta. È questa la cosa importante, è questo che abbiamo voluto fortemente scrivere e chiarire in questo libro. Nonostante Giuseppe avesse lamentato per 20 e passa anni un abbandono, distacco, allontanamento da parte delle istituzioni. Quindi, perché credo, innanzitutto come cittadino italiano, perché amo questo paese, mi sono detto: beh, ci provo io, se riesco a contattare Giuseppe posso cimentarmi in quest'opera. Ci siamo conosciuti 5 minuti fa, ma io poi mi occupo di basket, questo è un Ghiotto assist che sfrutto, sì. Perché hai detto è davvero importante che si siano mosse le istituzioni. Io, siccome Robert, il sindaco, parlava prima di fare altri incontri, come li abbiamo sempre fatti, approfitto che poi sono entrati adesso con qualche minuto di ritardo, seduto a fianco a lui l'ex sindaco di Pineto, Lucia Monticelli, con il quale abbiamo fatto, non so se 50 incontri fra no al petrolio, legalità, e anche il presidente dell'area marina protetta del Cerano, Leone Cantarini. È bello che oggi siano anche le istituzioni qui, come dicevi tu. Veniamo a Giuseppe. Giuseppe, io scusami se ti riporto indietro, ma non posso esimermi, visto che siamo preda, ripeto, di serie, di fiction. Invece per dirla con Shakespeare, c'è tanta roba sotto il cielo, no? Più che nella filosofia, nell'Amleto, si dice la realtà supera di molto la fantasia. Siamo a quel 23 maggio 92, tu sei a Punta Raisi, arriva il magistrato, ti chiedo, con tutto il rispetto, scusandomi in anticipo, ripercorri con noi quella che è stata veramente una linea di demarcazione della Repubblica Italiana. Cos'è accaduto? Tu eri l'autista che lo aspettava. Allora, quella mattina il dottor Falcone mi chiamò a casa, così era normale per lui fare queste comunicazioni, comunicandomi che arrivava alle 17.45 a Palermo, pertanto di attivare la scorta, perché ero io che facevo la tramite. Lui non comunicava direttamente all'ufficio scorta. Quindi presi la macchina e mi sono recato in ufficio. In ufficio, per sicurezza, sono entrato nella stanza assegnata al dottor Guarnotta, che è un componente del pool allora, dove lui non c'era. Quindi presi il telefono del dottor Guarnotta e comunicai all'ufficio scorte l'orario. Faccio presente che la scorta non era più quella stabile di una volta, perché dal momento in cui il dottor Falcone andò a Roma, la scorta fissa non c'era più. Quindi ogni qualvolta mi comunicavano l'orario, gli uomini che erano disponibili venivano impiegati per quella scorta. Da circa 2 anni questo avveniva, perché prima dall'84 al 92 c'era una scorta fissa, anzi due, che ruotavano. Quindi quella mattina ci siamo ritrovati a Punta Raisi, puntualissimo a terra il piccolo aereo, che è un aereo dei servizi, Falcon 10. Falcon, classico Falcon dei servizi. Falcon 10, sì. E scese in compagnia della moglie, Francesca Morvillo, che immediatamente si va a sedere davanti, lato guida. Lui, onde evitare di mettersi dietro, si pone alla guida. E io seduto dietro, centralmente ai due sedili anteriori. Ci siamo avviati per Palermo e mi chiedeva dell'auto, di una sua utilitaria, una Fiat Uno. Mi aveva lasciato l'incarico di fargliela preparare, perché lui a Roma si muoveva liberamente senza bisogno della scorta e quindi aveva bisogno di questa macchina. Gli ho detto che era pronta. Prosegue nel dirmi che lui non si sarebbe fermato a casa perché aveva un incontro con altri magistrati. Pertanto io dovremo accompagnare la moglie a casa e ci saremmo rivisti lunedì mattina per riaccompagnarli in aeroporto. Al che gli dico, arrivato a casa mi dà le mie chiavi in modo che io possa prendere la macchina. Ma lui era soprappensiero, evidentemente stava pensando all'incontro con i suoi colleghi, poi vi dirò anche il perché. Sfila le chiavi spegnendo la macchina. Con la macchina in moto? La macchina in velocità. Quindi marcia inserita, spegne la macchina, io lo richiamo. Io dico, così che faccio? Andiamo a ammazzare. E lui, girandosi verso di me, incrociando lo sguardo con la moglie, che annuì, mi passa le chiavi e mi fa scusi. Però è bastato quel spegnimento di macchina, quel rallentamento che ha avuto la macchina in quanto in trazione del freno motore, perché il volano fa da freno motore, a salvarmi la vita. Quindi se io oggi sono qui, devo ringraziare questo errore inusuale, perché non c'è spiegazione. Cioè, chi spegnerebbe una macchina mentre che a velocità toglie le chiavi? Cioè, bisogna essere altrove. Però questo mi ha salvato la vita. E di questo poi sono stato talmente accusato, perché se c'era Falcone al posto tuo si sarebbe salvato lui. A questo devo dare una smentita. Perché? Lui guidava in un modo da comune cittadino, come qualsiasi cittadino possa guidare. Noi tecnicamente occupiamo le 3 carreggiate affiancandoci e parallelamente tallonandoci. Quindi copriamo le 3 carreggiate contemporaneamente. Fate conto queste 3 file di libri. Diciamo che siamo così, guardate, questo modo. Quindi siamo che ci talloniamo in questo modo. Compresa quindi la corsia di emergenza. Tutto occupato. Perché la 29 quindi, sono 2 corsie. Non posso, chiunque vuole superare non ci può superare. Questa tecnica avrebbe portato tutte e 3 macchine sulla linea di fuoco contemporaneamente, perché tutte e 3 ci saremmo ritrovate sul punto dell'esplosione. Il suo modo di guidare ha fatto sì che la prima macchina ha preso in pieno l'esplosione, sorvolando addirittura la carreggiata di ritorno dell'autostrada, andando a finire su una scarpata, su un terreno. E quelli purtroppo sono morti tutti, cioè non ci hanno capito niente. Io con l'impatto che ho avuto con questo muro, perché tutto sommato è un muro che si solleva di detriti, e noi ci siamo andati a cozzare contro. Io da dietro sono andato a finire con la fronte allo specchietto retrovisore e ho buttato fuori il parabrezza, per poi ritornare indietro. Quindi mi hanno trovato svenuto fra i sedili posteriore e anteriore. Dopo di ciò io non so più niente, mi sveglio in ospedale. In ospedale mi dicono che c'è stato un incidente. Questa è stata la prima comunicazione. Poi piano piano mi hanno informato di ciò che era successo. Ma io voglio tornare a una settimana prima dell'attentato. Il dottor Falcone, mentre era a Roma, perché è una sua creatura, ha realizzato la DDA, la direzione distrettuale antimafia. Quando scese dall'aereo e seduto in macchina con molta soddisfazione, mi comunica, dice: è fatta, queste sono le sue parole, è fatta, io sarò il procuratore nazionale antimafia. Pertanto ci organizzeremo a Palermo come ufficio e non ci muoveremo più con la macchina ma con un piccolo elicottero chiamato Moschito. E mi invitava a sostenere esame per prendermi il brevetto di pilota. E io ho accettato. Questo succedeva la settimana prima. La settimana successiva avviene l'attentato. Io ritengo che quell'attentato è dovuto al suo incarico. È un depistaggio fatto a Palermo. La manovalanza usata è quella palermitana o locale. Ma l'ordine da dove è arrivato? Io penso che a qualcuno ha fatto paura questo suo nuovo incarico, perché lui andava a riallacciare quelle indagini interrotte nell'89, quando c'è stato il fallito attentato alla Daura. Io ero presente. Quella mattina abbiamo rinvenuto quel borsone sulla scogliera con una muta sopra. Aprendo quel borsone si rinvengono all'interno due contenitori, uno metallico e un altro collegato con dei fili elettrici. Si capì che era una bomba, scatta l'allarme. Si avverte il magistrato che, incredulo, mi chiama e mi fa: cos'è questo discorso della bomba? Ho detto: sì, c'è una bomba giù in scogliera. Ribadisce: ma lei l'ha vista? Sì, io l'ho vista. Al che il magistrato viene messo in sicurezza e io rimango su quella scogliera con l'artificiere, che è stato bravissimo, ha posto una mini carica su quel lucchetto che chiudeva la cassetta metallica e, riparandoci dietro uno scoglio, faceva brillare quella mini carica senza causare alcun danno a tutto ciò che lo circondava. Quindi tutto è rimasto integro. Quel lucchetto è stato aperto come se fosse stato aperto con le chiavi. All'interno di quel contenitore si rinvengono 53 candelotti di esplosivo. Tenete presente che in quella circostanza lui aveva ospite due magistrati svizzeri che stavano collaborando sui conti cifrati svizzera. Quindi aveva già messo le mani su quei conti. Da quella disavventura della Daura nascono tante altre conseguenze, perché c'è stata poi la nomina di Antonino Meli al posto suo, perché lui aveva partecipato al concorso per diventare consigliere istruttore al posto di Caponetto. Caponetto si era ritirato perché era anziano e si pensava che Falcone ne avesse preso il posto. Non è andata così. Il posto l'ha preso Antonino Meli, che dopo essere entrato in possesso ha di fatto smantellato il pool, dicendo che tutti i magistrati dovevano fare tutto. E Falcone ribolliva perché non gli si dava più la possibilità di procedere nelle indagini. Allora cercò di passare in procura e andò a ricoprire l'incarico di procuratore aggiunto. Ma anche lì le cose non andavano. Premetto che quando lui se ne andò in procura, Io pensai, ho detto, beh, lui va in procura, io rimango all'ufficio istruzione. Il rischio che era palpabile, non era una cosa così, cioè ogni giorno poteva essere l'ultima. Ho detto, beh, mi tolgo questo peso. Perché? Perché io avevo due guerre, una in casa e una fuori. In quanto la famiglia, a conoscenza del mio servizio, era preoccupata. Ma lì anche in procura mi chiamò e mi disse, dice, io vado in procura, che fa? Mi segui? Quando un magistrato ti chiede una cosa del genere, non te lo sta dicendo perché vuole sentire un no. E l'ho seguito in procura. Quindi continua questa attività. Diciamo anche una cosa, Giuseppe, adesso magari interroghiamo, torno anche a Riccardo. Quando hai detto, perché è molto importante la nomina di Meli, fece discutere molto, Falcone, dopo anni di esperienza su conti cifrati, mafia, famiglie, legami e gangli, poteva essere mandato a indagare sul furto di motorino. Quindi tutti devono fare tutto, poteva anche essere letta come una sorta, ecco, poi è avvenuta una sorta di destrutturazione di una cosa che funzionava molto bene. E quindi non puoi fare a meno di pensare, ma insomma, a chi giova questo? Certo stai facendo un favore alla mafia, se le persone più capaci le rimandi tutte a occuparsi di tutto. Torno un attimo da Riccardo. Abbiamo sentito con quanta sofferenza poi, insomma, Giuseppe parla di una cosa che lo ha visto lì, protagonista dentro. Quando avete... Il libro poi è narrato in prima persona. Quando, sì. quando avete dipanato le sue vicende, quanto è stato difficile ripercorrerle e che effetto ti ha fatto, anche se qui l'uomo Giuseppe Costanza, questo zaino così pesante che si porta dietro? È stato difficile perché ci siamo visti, c'è sicuramente una distanza geografica, io abito a Forlì, lui è a Palermo. È un lavoro che ha richiesto anni, perché al di là del fatto che è la mia prima opera, ma anche perché è il tipo di narrazione, fermo restando anche che Giuseppe ha sempre fatto fatica non solo a esprimere, perché sono argomenti pesanti, cioè umanamente difficili, duri, ma anche per una questione mnemonica. Abbiamo di fronte un sopravvissuto con il 50, lo ricordo sempre, non mi stancherò mai di dirlo, con il 54% di invalidità permanente, quindi dal 92 in poi. Un'altra commissione medico ospedaliera gli ha riconosciuto l'80, però questo non è stato accettato in tribunale. Quindi un uomo provato nel corpo e nell'anima. Quindi da parte mia c'è stata anche una perseveranza sicuramente, però il grande sforzo, mi ricordo sempre di dirlo, vi ricordo di dirlo, è stato il suo, per questo gliene sono grato. Quindi è un insieme di fattori, cioè, questo è uno sforzo che, ripeto, è stato collettivo, è stato corale. Giuseppe, in un'intervista rilasciata credo proprio pochi giorni fa a Salvo Palazzolo per Repubblica di Palermo, tra l'altro Salvo è un amico e qui ha presentato il suo libro I pezzi mancanti, e quando si legge nel libro e tu dici aveva due borse ma non aveva il suo computer, sì. Ecco, uno di quei pezzi mancanti è il libro di Salvo, che è venuto proprio qui a presentarlo, è il computer di Falcone, perché poi viene trovato ma è pulito, sì, esatto. L'hard disk è pulito, insomma. E non me, si regge, no? E a me costa che lui registrava lì in quel computer. Come l'agenda rossa di Paolo Borsino, che non si trova lì, trovano il computer, ma è pulito. Quindi, insomma, fatevi l'idea che volete, ma insomma. C'è qualcosa che non funziona, che non quadra. Ecco, i pezzi mancanti. Tu hai dichiarato proprio all'amico Salvo: al risveglio dopo l'esplosione, pensavo di aver vissuto il giorno più brutto della mia vita. Mi sbagliavo, non era quello il giorno più brutto. Restare in vita è stato peggio, quasi una disgrazia e una condanna. Ecco, siamo. Ti ho chiesto lo sforzo e ti ringrazio di percorrere quel giorno. Poi, paradossalmente, per quanto possa essere incredibile, la tua ulteriore parte di vita peggiore comincia il giorno dopo. Perché? Innanzitutto, possiamo dirlo, adesso si usa mobbing sul lavoro, come lo vogliamo chiamare, cioè dove ti mandano? Per adesso è questo. Cioè tu sei in prima linea 8 anni con Falcone, rischiando la vita ogni giorno, vieni, fai un lungo calvario ospedaliero, un anno, eccetera, poi esci e dove, cosa accade? Premetto una cosa, io ho lavorato tanto con lo Stato e come vedete continuo a lavorare con l'istituzione e sono orgoglioso di questo e quindi parlo bene dello Stato perché io faccio parte dello Stato, noi facciamo parte dello Stato, però devo essere anche polemico con lo Stato perché nello Stato purtroppo ci sono persone che occupano dei ruoli e che non lo sanno gestire o che non sono capaci o che ci arrivano chissà per quali versi. E allora qualcuno magari storcerà il naso, ma quella verità va detta. Da partire dal 1992, dopo che io sono rientrato in servizio, non sapevano cosa farsene di me, perché non ero più idoneo alla guida e quindi una volta mi facevano fare le fotocopie, una volta portare questo, portare quello. Poi il Ministero della Giustizia, attraverso questi luminari della funzione pubblica, ha deciso che io, non essendo più idoneo alla guida, mi retrocede a portiere. Bene, io sono stato sempre un tipo piuttosto ribelle nella mia vita, non ho accettato questo tipo di decisione, quindi decreto portiere. Bene, non sono orgoglioso dicendovi questo, ma me ci hanno costretto, sono stato costretto a manifestare davanti il Tribunale di Palermo incatenandomi e attirando l'attenzione dei media. Ma a questo si deve arrivare grazie alla burocrazia. Perché? Perché io hanno scoperto che ero un civile. Ma perché? Per 8 anni cosa ho fatto? Io ho svolto un servizio militare da civile. Io avevo la radiopolizia in macchina. Io ero armato. Io ho rischiato la vita tutti i giorni. Quando è successo il fatto, sì, tu sei un civile, non ti spetta. Perché? Perché mentre per i militari esiste una norma che qualora subiscono un attentato o qualsiasi violenza vengono premiati con una graduazione in più, passano da un grado all'altro, giustamente, ma perché i civili non lo dobbiamo avere? Cioè tu ministero che vedi che manca una norma e c'è qualcosa che non va, provvedi, ma che ci state a fare al Ministero? Che ci state a fare al Parlamento? Viene a mancare una norma, provvedete a che venga messa a posto, che venga equiparata. Invece no, mi retrocedono a commesso, a portiere. Dopo la mia manifestazione sono trascorsi 3 anni, dopo 3 anni si sono accorti di aver commesso un errore, mi riportano nella mia qualifica funzionale. Quindi vi siete accorti che c'è qualcosa che non funziona. Però a tutt'oggi nessuno ha provveduto a che questa laguna venga colmata. Quindi, poi c'è un'altra cosa che devo dire. Dopo questa mia manifestazione c'è stato il ministro allora della giustizia, quello comunista, come si chiama? Oliverio Diliberto. Un giorno, mentre che sono in ufficio, una collega mi fa: Costanza, c'è il ministro Diliberto che ti vuole parlare. Guardate, io pensavo che era uno scherzo di qualche collega che si voleva divertire. Prendo il telefono, pronto. Ci sono il ministro Diliberto, ho sentito le sue lamentele, vorrei sapere che cosa preferisce fare. Così come dico la brutta, dico la buona. Questo è realmente intervenuto facendomi transitare. Allora esisteva l'ufficio informatico, non questo moderno, sapete quelle macchinarie che coprivano una stanza intera? Schede perforate, centro elettronico. Certo. E allora, pur mantenendo la mia qualifica, mi ha fatto transitare in questa attività. E quindi diciamo che c'è stato un intervento positivo nei miei confronti. Però bisogna anche dire che prima di arrivare a questo ho dovuto vergognarmi manifestando davanti un tribunale incatenandomi e non ne sono per niente fiero. Ma a questo bisogna arrivare. Cioè, perché questo muro di gomma? Questo continua per tanto tempo. Passiamo a un altro argomento. Quando dopo l'attentato venne eletto Prodi come Presidente del Consiglio, il suo primo intervento è stato a Palermo, alla fondazione, allora era Falcone Borsellino. Lo ho preso dai giornali, mi sono presentato in quella sede. Il servizio d'ordine richiedeva l'invito. Questo invito io non l'ho ricevuto, però mi ritenevo qualificato per essere presente in quella sala. Sono stato allontanato, anche qualificandomi. Lì per lì pensai, beh, sarà stato un disguido della posta, può capitare. Ma è un disguido che dura 22 anni fino al 2002. Non penso che sia un disguido. Chi si mette a rappresentare l'antimafia, chi si mette davanti, dovrebbe prima circondarsi delle persone che siamo rimasti in vita, e non sono il solo, perché se ritorniamo indietro nel tempo, nel 1983 c'è stato l'attentato Chinnici, dove rimase in vita Giovanni Paparcuri, emarginato anche lui. Dietro la mia macchina, dove ero io, sono rimasti in vita altri tre agenti. Io non sono l'unico sopravvissuto. C'è Cervello, c'è Corvo e c'è Capuzza. Non se ne parla mai. Ma i rappresentanti dello Stato, quei rappresentanti che salgono in quel palco, non si chiedono dove sono coloro che hanno dato un contributo di sangue per lo Stato. Secondo me dovrebbe essere un suo dovere. Io ho fatto il mio dovere, ma loro perché non fanno il proprio? E invece si sale sul palco a fare che? Passerella? E allora stiamo attenti a chi portiamo al governo. Noi abbiamo un'arma eccezionale e di qualsiasi colore esso sia, quando andiamo a votare portiamo persone per bene, portiamo persone rispecchiate che ci rappresentano veramente e non che vanno a rappresentare loro stessi. Scusate, ma questo è uno sfogo che io faccio e lo faccio con tutto il cuore perché l'ho vissuta io in prima persona e so che significa trovare un muro di gomma. Ora si sono svegliati. Io sono arrivato oggi alle scuole attraverso la professoressa, il direttore generale Giovanna Boda del MIUR, che sentendo queste mie continue denunzie pubbliche, che io non ho denunziato così sotto banco parlando con l'amico, attraverso giornale e televisione io ho fatto denunzie, finalmente trovo nelle istituzioni una persona che mi vuole ascoltare. Bene, mi invita a Roma, ci vado, gli racconto la storia, si attiva, mi fa incontrare gli alunni. Io ormai da un po' di tempo che vado in giro per l'Italia raccontando una testimonianza vera. Bene, da poco è stata promossa e rimossa. A qualcuno avrà dato fastidio. Lo vedremo a seguire nel tempo. Io ho chiesto che la macchina di Falcone venga a Palermo e mi è stato detto di sì. Adesso tramite altre persone ho saputo che qualcuno si vuole prendere questo titolo. È stata tua l'idea? È stata mia e l'ho pubblicata pure. Che su proprio l'articolo del 10 aprile su Repubblica su Palermo. Quella che l'ho voluta fare appositamente per bruciare quell'idea. Cioè tu Perché per chi non avesse letto l'articolo, tu proponi che quella macchina sia davanti alla, davanti al tribunale, sì. A presidio e a perenne perché monitor. Perché tutti quanti devono vedere di che cosa si tratta. A proposito, scusami, ma insomma perché il silenzio favorisce la gente che nell'ombra manovra certe cose. Mi hai dato il destro. Noi non vi portiamo dentro le pagine del libro, perché come diciamo sempre quando presentiamo i volumi, da queste parti i libri vanno poi letti, vanno acquistati e letti. Però per dirvi di quanta importanza, lo sapete tutti, no, cosa è successo, però per dirvi quanto fu importante per i più giovani perlomeno, qui c'è subito Oscar Luigi Scalfaro che va a trovare il nostro Giuseppe all'ospedale, ma per dirvi, questo fu un attentato che fece votare il Presidente della Repubblica. Si cincischiava in quei giorni, vi ricordate? Non, no? Si poteva leggere. Palleggi contro Palleggi, Andreotti va, non va. Purtroppo mettono la bomba a Capaci e il Parlamento in una votazione vota Oscar Luigi Scalfaro. Lo sa, è brutto che io ti chieda questo, anche, ma tu eri lì, anche se eri provatissimo. Ricordi qualcosa della vista del Capo dello Stato? Ricordi una parola? Ricordi un segno? Visto che si sta parlando anche dell'importanza delle istituzioni, quelle con la S, dello Stato con la S maiuscola. Allora, come hai detto tu poco fa, non mi sembra di sì, comunque non ci penso, io sono medaglia d'oro al valor civile. Quando venne il presidente dello Stato, della Repubblica, a trovarmi in ospedale, sapete, in quel momento vedevo le istituzioni vicine. Era successa una cosa così eclatante e quindi mi sentivo tutelato. Ma quanto durò? Il fuoco di paglia. Sapete presente quando brucia la paglia, che c'è una gran vampata e poi finisce tutto? Non è successo niente. Da quel momento in poi, dopo quella visita, è come se non fosse successo nulla, abbandonato completamente. Ma io penso che quando una persona viene riconosciuta con un'onorificenza simile, è dovere di chi rappresenta lo Stato accertarsi, ripeto, la presenza di queste persone. Perché l'invito, prima di arrivare al Presidente della Repubblica, deve arrivare a chi ha dato una parte della propria vita. Questo, secondo me, deve essere fatto. Il riconoscimento va dato giustamente a chi non c'è più, ai familiari di chi non c'è più. Ma che colpa ne abbiamo quelli che abbiamo avuto la disgrazia di sopravvivere, di essere dimenticati? Il 21, quando è il 21 marzo, 21 aprile, il riconoscimento delle vittime, quando è? 21? 21 marzo, giornata, tu dici, delle vittime. Ricordo. Ma scusate, vittime perché cosa si intende? Chi sono le vittime? Vorrei capire chi sono. Ma chi subisce una violenza non è una vittima. O sono vittime soltanto, attenzione, i familiari, i caduti, che io riconosco a tutti gli effetti. Ma noi che rimaniamo in vita, non siamo vittime anche noi? Bene, non siamo stati mai invitati, mai. Non siamo, salgono sul palco e parlano soltanto di chi non c'è più, giustamente. Ma noi che ci stavamo a fare? Le eravamo di passaggio. Abbiamo subito così, siamo passaggi, disgraziatamente siamo incappati in un attentato. Io ho svolto un servizio per 8 anni a rischio, continuativo, ogni giorno poteva essere l'ultima. E finiamola, dai, svegliamoci, noi cittadini dobbiamo essere attivi, queste cose facciamogliele pesare. Se io non parlo, per loro continueranno per sempre così, invece facciamoglielo pesare in modo che possano correggersi, perché all'interno dello Stato ci sono persone sensibili, ce ne sono altri che se ne stanno fregando. Attiviamoci in modo che le persone sensibili recepiscono questo messaggio deve arrivare ai vertici, deve arrivare e fare in modo che operano e non che si fanno i fatti propri. Torno a Riccardo, poi ovviamente voglio adesso. Poi vorrei parlare anche di. Siamo in tempo, abbiamo un... poi torno a Giuseppe. Riccardo, mi viene in mente, lui in fondo Giuseppe sta parlando di una sorta di dannatio memoria, cioè hai avuto la sfortuna di rimanere vivo. Quindi mi torna in mente una storia raccontata da un coraggioso come te, che però riguarda un ufficiale polacco, Witold Pilecki. Lui si fa arrestare volontariamente per creare una controinformazione all'interno di Auschwitz, tutt'altro periodo, ma per dirvi il coraggio di quest'uomo, va volontario ad Auschwitz per creare una sorta di controspionaggio interno. La storia l'ha raccontata lo storico pescarese Marco Patricelli, che è stato nominato per la serie Istituzioni Sensibili Benemerito in Polonia dal capo dello Stato polacco per aver raccontato questa storia, che nessuno aveva raccontato, perché Witold Pilecki non si sa neanche dove è stato sepolto, perché nella spartizione polacca cannibale fra Germania e Russia lui era scomodo per i tedeschi e per i russi, perché raccontava del genocidio di una vera e propria nazione. La Polonia poi fu fatta a pezzi, ma questa è una pagina un po' complicata, solo per dire quando hai il difetto di capitarci, e quindi la dannatio memoria, di te non si deve mai più parlare, non si sa dove è sepolto questo povero capitano Witold Pilecki. Ecco, invece Giuseppe ha la tigna e la forza di rimanere vivi e ci fa questo appello, no? Che poi, e mi viene un po' di davvero una grande commozione, è l'appello del povero Libero Grassi, diceva la qualità del consenso, cosa ci ha detto adesso Giuseppe, un altro suo concittadino che purtroppo è stato ammazzato dalla mafia, la qualità del consenso, selezioniamo la classe dirigente, facciamo più attenzione. Ecco, una tua riflessione su questa dannazione memoria, perché lui e anche le altre vittime rimaste vive, che potrebbero fare, per esempio, visto che ce lo sta suggerendo, una sorta di consulta, anche solo per essere consiglieri gratuiti di questo Stato con la S maiuscola. Perché invece chi si salva deve scontare in eterno questa colpa di essersi salvato? Secondo te, che idea ti sei fatto? L'idea che mi sono fatto è per un insieme di motivi. Non c'è qualcuno da incolpare precisamente, non c'è una responsabilità chiara, ben definita. È un problema sicuramente sistematico, è un problema di informazione. E se ascoltate adesso, il 23 maggio è prossimo, qualsiasi giornalista dirà l'anniversario della strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone e Francesco Morvillo, gli uomini della scorta. È già lì. Quindi, allora, non sono gli uomini della scorta, hanno un nome e cognome innanzitutto. Però per i tempi della televisione che conosciamo tutti, quindi bisogna tagliare, anche un secondo ha un valore. Per quanto riguarda la categoria, passatemi il termine, dei sopravvissuti, quelli sono, come ho scritto, eroi di serie B, buoni soltanto per un'intervista, ogni tanto, quando bisogna lanciare il pezzo, quando bisogna fare colpo sull'opinione pubblica. Dicevo, ci sono di tante persone le responsabilità, l'informazione sicuramente, ma poi anche, che dire, della sua esperienza dal 93 in poi, quando rientrò in tribunale. Come si fa un sopravvissuto che ha patito le pene dell'inferno durante e dopo, quindi dopo l'attentato, per la riabilitazione dolorosissima, lunghissima, eccetera, metterlo a fare delle fotocopie? C'è anche una questione di insensibilità, c'è oggettivamente una indifferenza, forse, dei dirigenti di allora del tribunale, che potevano fare qualcosa, no? Potevano, però, come ha specificato giustamente prima Giuseppe, lui era un civile. Questo è un elemento, signori, dirimente, perché il dirigente di turno non ha fatto altro che appellarsi alla norma. Quindi, per i sopravvissuti, mi viene in mente il militari, povero Falcone, che parlava dei professionisti delle carte a posto. Esatto. Per i militari c'è un percorso predefinito, uno spostamento, un avanzamento di carriera, di privilegi, eccetera. Per i civili no. Giuseppe Costanza al tempo era autista giudiziario. Quindi è chiaro che se c'è una lacuna legislativa, sicuramente il legislatore, il Parlamento doveva adoperarsi, ma laddove per questioni politiche, perché era un periodo convulso, quello per tante ragioni non si riesce ad arrivare in tempi brevi alla norma, beh, insomma, anche tu dirigente, insomma, ti devi chiedere, devi fare qualcosa, altrimenti non... Ci sono servitori dello Stato di serie A e servitori dello Stato di serie B, e questo è, insomma, è un'ingiustizia. Vedete quante cose tornano anche nella vita di ognuno di noi, no? L'esporsi, per cui la Vulgata dice ma lascia perdere, no? Mo ti vai a mettere proprio, sì, tu davanti, il pagarne le conseguenze, il mobbing, l'emarginazione. Io due cose vorrei chiederti. Poi posso prego, aggiungere una cosa? Prego, scusa. A proposito appunto di indifferenza, Giuseppe, come avete potuto sentire dalle sue parole, due anni dopo, non vedendosi invitato, pur essendosi qualificato, eccetera, è arrivato appunto a questo gesto eclatante dell'incatenamento alla cancellata del tribunale. Però quello non è stato l'unico segnale, l'unica protesta, ce ne sono state tante altre. Cioè, quindi mi chiedo, per quale motivo? Danno fastidio? Sono dei rompiscatole? Quindi c'è veramente una sordità, c'è un'indifferenza nei confronti di queste persone, forse perché paradossalmente, come ha detto lui, eccetera, ha avuto la disgrazia di rimanere vivo. Giuseppe, due cose. Qui c'è stato al tuo posto il, personalmente parlando, grande Nicola Gratteri, ci sono stati servitori dello Stato, giornalisti coraggiosi, ricordo Peppe Baldessarro minacciato dall''Ndrangheta, che adesso è il capo della giudiziaria Repubblica Bologna, quando era giù al quotidiano della Calabria venne qui, e tutti hanno parlato di ciò che traspare anche delle tue parole, cioè quando comunque la marea va o l'onda di fiume va in un certo modo, se tu vuoi combattere le cose ti ritrovi gioco forza in pochi e quasi ti autoghettizzi, cioè ti devi, sì. E quindi sarebbe benedetto un paese che non avesse bisogno di eroi, e invece purtroppo, infatti, quello che abbiamo scritto, questa gente la trovo, io sai, lo ritrovo nel libro, ma ne abbiamo parlato qua per 5-6 anni proprio in questa sala Corneli, questo poi ti commuove, quando tu non ci conoscevamo fino a un'ora fa, ecco quanto è dura avere la consapevolezza nei tuoi 8 anni a fianco di Falcone che comunque per cambiare le cose, per cambiare, quando poi diciamo che la mafia è spesso in piccoli gesti quotidiani in ognuno di noi, no? Si annida una mafia in sedicesimi, dover quasi, no, autoescludersi, cioè dover vivere ai margini, rischiare il collo ogni giorno, non voler fare gli eroi, ma di fatto essere un gruppo di coraggiosi che viene quasi visto, no, con, non dico con sospetto, ma quasi mal tollerato, perché mi ricordo anche, sì, le polemiche a Palermo che davano fastidio le sirene delle scorte, esatto, o qualche super direttore che parlava di questo magistrato che scendeva con la pistola in piena evidenza, poi però dopo che l'hanno fatto saltare in alto non ha scritto più i suoi forbiti editoriali. Ecco, questo concetto dell'emarginazione anche in vita, anche per questo manipolo come il pool di Palermo, eroi anche non volendolo essere, come vivevate questa quotidianità? Ma intanto nel mio caso hanno trovato loro un muro piuttosto resistente, perché forse speravano che dopo l'emarginazione io sarei rimasto ancora in silenzio, ma come vedete ci sono persone e persone. Io sono stato uno di quelli che gli ha dato sotto e oggi sono stato messo in evidenza, probabilmente pagherò le conseguenze chissà sotto quale altra forma, perché di tutto certa gente è capace. Ricordatevi che la mafia non è soltanto quello che spara, così diceva Falcone, ma è quello che ti emargina, e quindi bisogna stare attenti, cercare di individuarle e colpirle e fare terra bruciata attorno a questi signori che seduti su una poltrona si credono di essere i padroni dello Stato. Guardi che quando vengono individuati persone di questo tipo che non svolgono il loro servizio, il loro dovere, devono essere più colpite degli altri e devono pagare peggio di chi spara. E invece a volte non è così, purtroppo. Ma comunque, parlandone, però, questo fa sì che gli arriva alle orecchie, perché da questa sala o da altrove, io dove vado, queste mie parole gli arrivano. E qualcuno incomincerà a stare attento e a non spadroneggiare. Se dovessi raccontare, hai parlato stamattina con gli studenti, insomma, ai tanti più giovani di noi, che, per i quali magari il volto barbuto di Giovanni è un'icona quasi come Che Guevara, cioè è un mito, Ma se tu dovessi raccontare a un bambino chi era Giovanni Falcone, avendoci vissuto a fianco 8 anni, di cosa parleresti? Di che uomo racconteresti? Allora, Giovanni Falcone ha due facce della medaglia. Quello di magistrato, che è inavvicinabile. Ma era una corazza che lui rivestiva, perché come magistrato non era facile arrivarci. Lo faceva perché non voleva che qualcuno potesse chiedergli delle cortesie. Anche con la scorta era molto duro. Poi c'è il lato umano, l'uomo. Per esempio, quando in ufficio non c'era più il personale, quindi siamo fuori orario di ufficio, mi vedevi il magistrato con il carrellino della procura che si andava a raccogliere i fascicoli per studiarseli. Perché? Perché questo lavorava tanto, cioè non era il classico magistrato che stava lì ad aspettare che qualcuno gli portasse quello che doveva fare, se lo andava a cercare, ma dava l'esempio, perché anche gli altri, vedendo lui che si muoveva così autonomamente, li portava a svolgere una certa attività. Questo era Giovanni Falcone. Un'altra cosa. Quando c'è stato il triplice omicidio a Bagheria della famiglia Mannoia, lui arrivava da Roma e io ero a Punta Raisi. Attraverso la radio polizia che avevo in macchina ho ascoltato che era avvenuto questo triplice omicidio. Quando è salito in macchina gliel'ho comunicato. Lui ha dato subito disposizione di andare a Bagheria. Ma subito dopo un sussulto lo fa pensare, dice: questo è un modo come attirarci in un acquato e farci fuori anche a noi. Quindi tramite la radio si dà l'allarme alla centrale, la centrale bonifica il percorso fino ad arrivare a Bagheria, noi arriviamo a Bagheria e troviamo quella strage che c'era stata. Contemporaneamente arriva il procuratore Giammanco e il procuratore aggiunto Morvillo. Fatto il rilievo di rito, il procuratore Giammanco chiama Giovanni e gli fa: Giovanni, mettiti in un'altra macchina, così se succede qualcosa tu non sei in quella macchina. Bene, Falcone non ci ha pensato due volte, ha detto: io a Costanza da solo non lo lascio. Ecco l'uomo Giovanni Falcone. Quelle parole per me hanno valore di più della medaglia che mi è stata conferita al Quirinale. Per quanto difficile, vorrei provare, nell'ultima domanda ti voglio fare, ad alleggerire, anche in alcuni scritti di Borsellino si parla di un Falcone anche molto ironico, no? Che aveva questa verve che tu hai anche un po' tratteggiato, che era anche un simpaticone che amava fare scherzi. C'è qualcosa che ti ricordi di amabile? Perché poi è anche bello ricordarsi di un grande servitore dello Stato vero, anche magari con un sorriso, se riusciamo. Una volta mi trovavo alla guida e mi caddero dalla tasca delle monetine. Lui ironicamente fa, dice: tutto ciò che è in questa macchina è mio. Li ha raccolti e se li ha presi. Basta all'uomo, questo all'uomo. Come quando io ci andavo a casa, allora preciso una cosa: l'autista arriva sotto casa, aspetta che scende la personalità e lo accompagna dove deve andare. Bene, io ci andavo in casa. Che senso ha l'autista salire in casa? Una confidenza che vi voglio fare. Io ero parrucchiere prima di entrare al Ministero della Giustizia. Lui ne era a conoscenza e mi chiese se gli potevo tagliare i capelli, perché non era possibile che lui andasse dal parrucchiere. Ecco perché io salivo in casa da lui e quando ci andavo trovavo la moglie e il marito in vestaglia, tutte e due che studiavano, e non se ne parla e nessuno lo sa, i processi perché lui si portava i fascicoli a casa e studiavano tutte e due, e la moglie lo collaborava moltissimo. Quando improvvisamente la moglie si allontanava, dopo un po' si presentava con il caffè e ci prendevamo il caffè. Ecco la donna, la padrona di casa, che mi ospitava, e in quel punto io ero ospite. Questo era Giovanni Falcone, questa era Francesca Morvillo. Signora, una signora, una persona eccezionale, ma sempre col sorriso sulle labbra. Peccato, peccato veramente. Abbiamo 10 minuti prima della fatidica ora delle 18 e sono stati molto proficui finora questi minuti. Io vorrei non sprecarne alcuno, perché se qualcuno di voi vuole fare delle domande a Riccardo Giuseppe sono qui. Direi che è giusto che io mi faccia parte, magari se volete interloquire voi con i nostri ospiti, e poi ricordarvi che il libro è qui, e vi assicuro che la lettura è istruttiva. Istruttiva per quanto dura, ma è istruttiva e bisogna farla. Prego. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Volevo chiedere una cosa. C'è stato un periodo in cui Falcone e Borsellino andarono alla Sinara per diciamo così, scrivere la requisitoria. Lei seguì? No, io. Ci fu pure quel fatto che lo Stato chiese il conto della permanenza. Ci fu la famosa battuta di Falcone. Dice Borsellino, abbiamo speso tanto, però ce ne siamo bevuti tanto di vino. No, quella è una triste storia, sì. Perché lo Stato è dovuto scappare, quindi hanno messo in sicurezza questi magistrati perché non sono stati protetti a tal punto, perché allora c'erano stati diversi omicidi, come Cassarà, che è stato ucciso in via Croce Rossa. Ricordiamolo, chiedo scusa Giuseppe, cioè è lo Stato che va alla Sinara, cioè è lo Stato che va, che si autoincarcera per essere sicuro di poter scrivere. Anche questa è una cosa che, insomma, vista oggi fa abbastanza impressione. Con le proprie famiglie. Io li ho accompagnati sino a quando si sono imbarcati. No, non ci sono andato io. Io ero a casa. Poi successivamente, rientrando, sono andato a finire in una caserma, protezione alla Lungaro, e quindi gli evitavano di andare a casa. Quindi pensate che quest'uomo è stato un ergastolano, cioè privato della sua libertà per dare libertà a noi, e poi è stato privato della sua vita. E la strada maestra era quella che lui aveva iniziato, e non soltanto lui, perché la strada maestra l'ha iniziata Rocco Chinnici, il magistrato che ha avuto l'idea di formare il pool. Il pool è quel gruppo di persone che condividono tutte le indagini, diventano inattaccabili. Perché non è soltanto un magistrato che potrebbe essere intimidito, che potrebbe essere minacciato, che può essere corrotto. È un pool, un gruppo di persone che automaticamente si difendono l'uno con l'altro. Non si può attaccare, minacciare o controllare diversi magistrati. Questa era la strada di Rocco Chinnici, l'idea di Rocco Chinnici, però che non si è perseguita, attenzione, si è fatta la DDA. Ed è quello che Falcone voleva, ma non soltanto la DDA, perché la sua intenzione, e mi riallaccio a quel discorso dell'incontro che aveva il 23 maggio con i suoi colleghi, era per riformare questo gruppo e ricominciare da lì dove era stato interrotto. E Borsellino è stato ucciso per lo stesso motivo, perché Borsellino era il successore di Falcone. Ed è stato eliminato il 19 luglio del 92 per lo stesso motivo, perché era il successore di Falcone e avrebbe preso il posto di procuratore nazionale antimafia. Quindi collegando al fallito attentato, collegando l'attentato a Capaci, collegando l'attentato di Via D'Amelio, il motivo è uno solo. Prego, collega Carlanello. Volevo chiedere, lei prima all'inizio, raccontando la giornata, ha secondo me volutamente sottolineato gli orari, nel senso che ha detto a me la telefonata è arrivata alle 8, poi io ho telefonato per quanto riguarda appunto l'arrivo di Falcone al, in aeroporto, considerando che viaggiava su un Falcon, quindi su una rete di servizi, considerando che non faceva sapere, quindi, e considerando anche la notizia che più volte è uscita, no, che qualcuno sapeva che sarebbe arrivato a quello, lei che idea si è fatta su queste, su questa concatenazione di fatti, di eventi? Io ritengo che quel qualcuno è partito da Roma, da dove lui era, perché chi altro sapeva del suo arrivo? E fortuna volle che io ero in quella macchina. Nella mia sfortuna sono stato fortunato, perché se io non ero in quella macchina, la talpa ero io. Consiglio regionale e ringrazio il sindaco e con Luca, poi in questi anni abbiamo fatto 10 anni qui, ne abbiamo fatti tanti di incontri che non voleva avere assolutamente quell'organizzazione, a volte anche un po' criticata, della questione dell'antimafia. Noi a Pineto non pensiamo nessuno dentro questo, ma solamente ed esclusivamente per portare un ricordo alla cittadinanza, un po' a tutti, di quello che è stato un periodo abbastanza brutto. Io la ricordo perfettamente quell'intervista al TG1, quando lei portava i capelli un po' più lunghi, naturalmente perché era un po' di anni fa, lei portava un paio di occhiali da sole, me lo ricordo, come se fosse adesso, perché mi rimase impresso che la sua lamentazione era molto legato al fatto di quello che era successo. Io non mi permetto assolutamente di dire quello che possono essere alcune dinamiche, ma mettere da parte coloro i quali hanno vissuto quell'esperienza era come chi doveva essere morire su quell'esperienza, quindi hanno la necessità di rimuovere alcuni personaggi, ed era un periodo talmente difficile che l'esplosione totale avvenne in quel Duomo durante i funerali, dove il capo dello Stato e il capo della polizia era Parisi. Fu aggredito dai familiari, soprattutto da una ragazza che lesse durante il moglie Schifani, no, se non sbaglio, la moglie o la ragazza, anzi la fidanzata credo di qualche poliziotto, no, è la moglie di Schifani, la moglie Vito di Schifani, chiedo scusa, ma adesso tutti, certo però lì già dava l'impressione di quello che stava succedendo. Lui ha fatto, Carlo ha fatto un passaggio importante, credo, quando dice: io ho telefonato a Roma in un altro ufficio. Lei ha detto che è andato a telefonare non all'ufficio di Falcone, ma l'ufficio di un altro magistrato, sì, perché probabilmente quello che negli anni 70 venivano definiti i servizi deviati era perché il problema, il nocciolo della situazione, il nocciolo della questione è dentro. Guarda, caro Giuseppe, il problema di quello che succede giù, che succede in maniera sproporzionato e anche troppo forte, perché c'è una storia atavica che adesso non sto qui a ricordare, quello che è la mafia, la 'ndrangheta o altre cose. Ma io ti posso garantire che quelle preoccupazioni o quel tipo di fare giustizia, a volte subiamo anche noi, io non sono il politico di riferimento alto, sono medio perché sono consigliere regionale, però a un cittadino normale, quando capitano alcune cose, anche la magistratura dovrebbe riflettere, perché a volte capitano, per quello che dicevi anche tu, ma lo diceva anche Luca, che ci sono dei magistrati a volte... Non vorrei mancare di rispetto, però se la telefonata avviene in un altro ufficio, probabilmente avevi capito che qualcosa lì dentro non funzionava. Quindi qual è lo Stato a cui io mi devo rivolgere e mi deve proteggere? Questo è un grosso interrogativo. E fa bene quanto sottolinei che alcune manifestazioni lasciano anche il tempo che trovo. Io sono perfettamente d'accordo, è quello che abbiamo fatto qui a Pineto. Io ci sono stati, Luca lo può ricordare, non era per fare chissà che cosa, ma per portare all'attenzione dei cittadini, soprattutto i più piccoli, quello che è stato. Qui c'era un albero che purtroppo è caduto un po' di anni fa per effetto della nevicata, ma c'era l'albero di Falcone, perché venne la sorella di Giovanni Falcone, dedicammo un albero, un pino, pineto deriva da questo perché ci sono le pinete, qui c'era l'albero Falcone, qui io chiedo anche a Robert casomai di ripiantarla, perché c'era quel giorno ci fu una grande partecipazione per questa dedica dell'albero a Giovanni Falcone. Ecco, io credo che fate bene, richiami spesso che coloro i quali saltano per aria e si salvano fortunatamente poi vanno nel dimenticatoio. È normale che bisogna stare attento, perché a volte allo stato c'è anche un altro stato parallelo che, ahimè, negli anni 70, strada di Bologna, piazza Fontana, sono stati anni brutti e cui purtroppo ancora ci vedono avanti. Io ti faccio i migliori auguri, sperando che i giovani possano, perché poi il mestiere che fai è quello di andare soprattutto ai giovani a raccontare, sensibilizzare i giovani, quello che io vi faccio i migliori auguri e grazie. Purtroppo non vi ho conosciuto quando ero sindaco, ma questo ci ha pensato Roberto e quindi mi fa enormemente piacere. Abbiamo avuto, grazie. Bene, io vi ricordo per l'edizione Minerva, Stato di abbandono, scritto da Riccardo Tessarini, sottotitolo porta anche il nome, Il racconto di Giuseppe Costanza, uomo di fiducia di Giovanni Falcone, il libro è qui, vi invito ad acquistarlo per contribuire a questa operazione di cittadinanza attiva, di legalità e di verità. Grazie a Riccardo Tessarini e grazie a Giuseppe Costanza. Voglio dire un'altra cosa, che tutto ciò che proviene da questo libro che ci compete è dato in beneficenza, noi non lo facciamo esclusivamente per informare, nient'altro. La chiusura al padrone di casa, mentre faccio la parte. Grazie ancora. Allora, ringrazio Giuseppe perché credo che ci abbia in quest'oretta regalato, insomma, un pezzo importante della storia che in qualche modo ha emozionato tutti. E in questa stanza ci sono delle bandiere, abbiamo il gonfalone della nostra città, abbiamo la bandiera della regione Abruzzo, il tricolore dell'Italia, la bandiera dell'Europa. E nel nostro piccolo speriamo che in qualche modo oggi lo Stato sia stato ad ascoltare con attenzione e con la speranza che il prossimo libro da Stato di abbandono possa magari arrivare ad essere Stato di attenzione, appunto. Ovviamente anche noi facciamo dono anche a noi a Giuseppe di un libro che racconta un po' la nostra storia, che ovviamente è completamente diversa, una storia di attenzione verso l'ambiente. Ah già, quindi. Mentre andavamo ad altri. Anche l'attenzione verso l'ambiente in qualche modo è significato di rispetto, di libertà, di legalità, di regole. Ecco, questa è una città molto sensibile, l'ambiente non a caso a chilometri e chilometri di pineta lungo la spiaggia dove abitualmente, purtroppo, in molte realtà nascono solo palazzi, invece a Pineto sono nate pineta, ovviamente per via e per volontà di persone che hanno preceduto ovviamente noi 100 anni fa e che hanno pensato che una città potesse sorgere, come dire, nel pieno rispetto delle regole. Quindi questo da parte nostra e credo di unirmi anche ai saluti del consigliere regionale, perché questo libro è stato tra l'altro scritto dal presidente del consiglio comunale che è qui presente, Ernesto Iezzi, che ha raccontato un po' anni e anni di storia del nostro territorio che è giù in fondo, che poi è l'autore di questo libro. Grazie. Ed un ringraziamento non solo a Giuseppe, ma un ringraziamento anche a Riccardo, che è stato davvero coraggioso e credo anche davvero significativo, perché probabilmente grazie a lui adesso questo libro potrà anche circolare. Soprattutto io spero che Giuseppe possa continuare in queste attività con le scuole, perché credo che la strada sia quella giusta, perché poi ovviamente non possiamo pensare di cambiare chi c'era prima di noi, ma sicuramente chi arriverà potrà fare qualcosa di importante. Grazie, in nome della città di Pineto. Grazie a tutti. Saluto. questo ringraziamento a Luca Martini, perché grazie a tutti, ovviamente avrete notato quanto ha messo di suo, insomma, di bagaglio, anche di sensibilità, di attenzione e di passione, insomma, il lavoro che fa, soprattutto intorno a determinati temi. Grazie Roma, grazie a voi. Grazie. Adesso abbiamo un'altra presentazione di un libro, è Giornate della Cultura, perché ci sarà Luca Savini che parla di cose completamente diverse.